24 mattino. Buongiorno. Buongiorno, buon giovedì da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra prima parte di 24 mattino e come sempre abbiamo due ospiti, Chiara Geloni, giornalista e non ce l'avamo sentite forse insomma un po' di settimane fa e ciao Chiara, buongiorno. Buongiorno e Angelo Maria Perrino, direttore di Affari Italiani.it, con lui ci siamo sentiti anche settimana scorsa. Eccoci, buongiorno. Buongiorno. E naturalmente vabbè, il tema e la notizia di ieri è la fiducia del governo Gentiloni al Senato, adesso avendo ottenuto il giorno prima quella alla Camera, oggi c'è già il primo impegno europeo da Premier, diciamo, nel pieno delle sue facoltà e appunto andrà a rappresentare l'Italia a questo vertice europeo. Sul tavolo però ieri anche tante altre cose, questa polemica la chiamo polemica perché è in realtà un fatto concreto che poi ha suscitato subito polemiche sulla questione del referendum sul Jobs Act. Verrà fatto un referendum anche per approvare o rigettare il Jobs Act. La Corte Costituzionale deve decidere, deciderà l'11 gennaio se questo referendum si può tenere. E poi c'è la questione del PD e qui vorrei chiamare subito in causa, però prima sentiamo cosa ha detto ieri Speranza, che è un esponente della cosiddetta minoranza Dem del PD. Io voglio un PD in cui Renzi non sia segretario, io voglio un altro PD, ma io vorrei fare il segretario del PD. Ecco, una bella autocandidatura. Chiara, tu cosa ne pensi? Anche perché mi sembra che sia, non so tu, però forse un po' prematura in questo momento la discussione su un congresso che non è ancora di fatto nemmeno stato fissato? Ma qui siamo, il PD in questo momento è un po' appeso al forse addirittura ai cambi di umore di Renzi, no? Perché all'inizio di questa settimana abbiamo letto sui giornali, e non dico letto sui giornali a caso perché la direzione non era ancora stata riunita, ma molti, molti dirigenti anche di maggioranza non lo sapevano, ma Renzi ha fatto sapere di avere intenzione di convocare per domenica prossima un'assemblea per far partire il congresso. E quindi diciamo che il tema del congresso lo ha sollevato lui. Il congresso naturalmente si dovrà fare comunque nel 2017, ma lui ha fatto sapere di volerlo anticipare. Sono poi emersi dei problemi anche statutari legati alla modalità di anticipare il congresso e anche forse altre considerazioni di Renzi, perché adesso, sempre stando in retroscena, perché ancora siamo in attesa di ascoltare una parola Renzi, sua, certo, che dovrà parlare appunto domenica in questa assemblea, sembra che Renzi non voglia più fare il congresso anticipato, ma voglia fare delle primarie di coalizione, una specie quindi di altro referendum su se stesso, da fare nei primissimi mesi dell'anno, in maniera da poi essere pronto per fare le elezioni senza fare il congresso. Naturalmente dipende un po' da lui in questo momento, cioè se c'è il congresso, Speranza, lo sappiamo da tanti mesi, che vuole candidarsi, certo, che sarà molto probabilmente candidato e quindi l'ha detto anche in TV. Se invece c'è un'altra cosa, cioè una coalizione che finora non c'è, anzi diciamo che finora la sinistra, tranne a Milano, è andata divisa alle elezioni in questi anni, ma se Renzi e Pisapia vogliono fare una specie di gara tra loro due e con questo comunicarci che esiste una coalizione nuova di centrosinistra, devono dircelo, perché noi finora non sappiamo niente di questo partito, certo, di Pisapia, e neanche di questa coalizione che sarebbe per fare il PD. Tra l'altro fa molto rumore questo silenzio di Renzi. Angelo, tu cosa pensi di questa sua questi suoi primi giorni da ex premier, in cui noi siamo abituati a avere un Renzi che parla spesso, lasciamo perdere poi l'ubriacatura dell'ultima settimana prima del voto, ma proprio in questi giorni è un po' sparito, lascia che siano gli altri a formulare tutti questi retroscena. Cosa pensi che sia una strategia, insomma, ragionevole, o forse gli si ritorcerà contro, perché appunto poi alla fine si dice tutto il contrario di tutto? Sì, io credo che non sia facile operare in un contesto così frastagliato, spappolato, all'interno di un partito così grande e così indecifrabile. Ho sentito le parole di speranza, mi viene da dire finché c'è vita c'è speranza, ma io credo che questa cosiddetta sinistra PD, i cui confini non percepisco con chiarezza, perché è un'area dove si entra, si esce, ci si divide ulteriormente in sottogruppi, credo che sia una grande iattura in quest'area, che non ha mai concluso nulla da anni, dai tempi di del mio amico Nichi Vendola, quando voleva candidarsi leader, da SEL, da Rifondazione, da quella fetta che sta a sinistra del PD, che è un confine labile. Costoro parlano, ma non hanno mai prodotto alcunché per il paese. Tra l'altro Nichi Vendola, insomma, quando l'ex sindaco di Milano Pisapia ha fatto questa strana proposta, ha dato un no preventivo. Nichi Vendola però con la sinistra del PD, Vendola non c'è mai stato nel PD. No, certo, io parlo di quell'area dove si entra e si esce. Vendola a un certo punto, in un'intervista al sottoscritto, annunciò che avrebbe voluto partecipare alle primarie. Sì, ma poi... è un altro partito, il segretario no, di un certo, altro certo, era però, il segretario di un altro però, partito. Quindi Angelo, intendi non tanto l'area Dem del PD, tutta quell'area cosiddetta sinistra, come dicevo, è un arcipelago che si forma e si deforma. Prendi, non so, Migliore, che era con Vendola, è entrato nel PD. È diventato sottosegretario, ripeto, sì, sembra ma è una stazione. Non è della sinistra, non è della sinistra, sì, è un cioè, ma viene dalla sinistra. Allora, in quell'area viene da un altro partito che, però, se non dialoga con la sinistra del PD, non si capisce dove possa andare con il suo 0%. Cioè, tu dici tutta la parte più a sinistra tutta quella dovrebbe zona, sì, tutta dovrebbe, quella zona dove sia all'interno adesso che all'esterno. Infilato anche Pisapia, al quale è stato detto: no, non deve nascere nulla alla sinistra del PD, caro Giuliano. E costoro, ripeto, si parlano addosso, ma non concludono nulla. Tant'è che non hanno un leader. Adesso c'è Speranza, che dovremmo convincerci rapidamente che è l'uomo che cambierà le sorti della sinistra. A me sembra un giovanotto esangue che assomiglia molto a Luigi Di Maio, piuttosto che ai quali non affiderei neanche il mio condominio. Senti, Di Maio in questo momento è il leader politico più popolare in Italia. Sì, certo, però l'idea di avere Di Maio alla guida del paese è l'idea preferita dagli italiani. Certo, però noi possiamo anche discuterne o no. Possiamo anche discutere della sinistra, che magari lei ha liquidato, direttore, in maniera un po' liquidatoria, adesso che la sinistra sia semplicemente un gruppo di persone che nella vita non hanno mai concluso niente, sinceramente è un modo di liquidare un pezzo di paese, di classe dirigente. Io penso che anche la sinistra... di mattina lo possiamo anche fare, ma insomma è una bella banalità. Io penso no? che la sinistra creda una sinistra riformista che assuma la responsabilità, esempio, che è la parola che ha usato Gentiloni ieri. Aspettate un attimo, che sentiamo. Dare al paese una prospettiva di governo. Aspetta, è un riformista, no? Aspettate un attimo, sentiamo un altro pezzo di quella che Angelo definisce la galassia da cui si entra e si esce del centro-sinistra nel senso più allargato possibile, perché ieri De Luca, che non si è trattenuto dal continuare a fare le sue, dico io, bizzarre esternazioni, e ieri si è dedicato, ha coinvolto anche i 5 Stelle, sentiamolo. Io ovviamente ne approfitto per ringraziare le 5 Stelle e per ringraziare anche i gruppi di opposizione, intanto per averci garantito di difendere il nostro stipendio. Io credo che sia un risultato positivo. Aver bocciato il referendum, e di questo siamo grati alle 5 Stelle, ci consente di difendere il nostro livello salariale. Ecco, io ho i miei dubbi che questo tipo di, non so se chiamarle ironia, sarcasmo, così, piacere della commedia porti consensi a De Luca e in certo senso anche al partito al quale appartiene, che è il PD. Chiara, tu che cosa pensi di De Luca, che sicuramente è un personaggio che così dà un tono colorato alla politica, però a volte mi sembra che si superi un po' quel o non ci sia quel minimo di serietà che a me piacerebbe tanto vedere in chi ha responsabilità così importanti come De Luca nella sua regione. Ma guarda, De Luca è De Luca, può essere anche simpatico, però qualche volta, anzi spesso, diventa offensivo e insultante e inappropriato per il suo ruolo. Ma quello che mi colpisce in generale è che questo discorso viene fatto oggi, all'indomani di una sconfitta come quella del 4 dicembre, e sembra che si parli con lo stesso tono con il quale si parlava il 2 dicembre, cioè come se non fosse successo niente. Questa incapacità di mettersi in sintonia col paese è piuttosto grave per un politico. Io apprezzo molto che Paolo Gentiloni, che è certamente un renziano e non è un avversario di Renzi, però abbia capito, come ha fatto ieri con la citazione di Ciampi sulla necessità dell'umiltà, abbia capito che dopo un fatto come quello del 4 dicembre, i protagonisti di quella campagna devono trovare un altro tono, un altro linguaggio, altrimenti diventano veramente delle macchiette, dimostrano di non riuscire neanche a prendere in considerazione, non dico a capire quello che è successo. Sentiamo un attimo quello che ha detto Federica della Lega e poi Angelo ti chiedo se anche tu pensi che non ci sia un segnale, abbiamo capito il voto, ammesso che sia possibile capirlo, c'è anche chi potrebbe dire, fare tutti i ragionamenti in quel 60% di no, non è soltanto un no al governo, insomma sappiamo che di questo si è molto discusso nei giorni scorsi, ma sentiamo Federica prima. Le ricordo, Presidente, quello che c'era scritto su questo striscione, che è l'articolo 1 della nostra Costituzione. La sovranità appartiene al popolo, non alla segreteria del Partito Democratico. Ecco, ci siamo di nuovo quindi alla questione. Quel 60% di no era tutto un no, è tutto un no al governo Renzi, alle sue politiche, e quindi, come dice Chiara, bisognerebbe ascoltare di più e dare dei segnali di discontinuità o invece... Come ho detto nella puntata scorsa, se attribuiamo il 60% del no a quella logica, allora il 40% che ha perso è tutto renziano. È un sillogismo che non ha senso. Dentro quel no ci sono tante cose. Trovo anche i ragionamenti della Lega a destra valgono esattamente i ragionamenti che ho fatto per questa sinistra frastagliata, cioè a destra la Lega di Salvini non riesce a produrre se non urla, strepiti e forconi tra un po', ecco. Dall'altra parte Berlusconi alle prese con le sue vicende private e ieri ha annullato tutti gli impegni perché è sottoscalata, e quindi alla fine questo governo, questo paese, chi lo governa? Vogliamo tener conto di questo? E anche nel dibattito attorno a Speranza, presunto leader di questo partito gigantesco ma privo di una strategia, vogliono parlare della sostanza dei problemi o dobbiamo continuare nelle logiche di schieramento? Ecco, forse oggi che... nell'argomentare la sua candidatura ci spiega come vorrebbe interpretare il voto, come il PD deve riprendere a dialogare con certe frange, ma questa è la premessa. Devi entrare nel merito, Speranza. Cosa vuoi fare del peso fiscale che grava sulle imprese, sui cittadini? Cosa vuoi fare dell'immigrazione? Dacci delle soluzioni, cioè spostiamo il dibattito sui contenuti. Basta con queste logiche nelle quali anche noi giornalisti abbiamo qualche colpa, perché continuiamo a interrogarci sui movimenti impercettibili di marketing politico di questo o di quel leader. Accanto a Speranza si muove Emiliano, è un altro che soffre con l'apostrofo. Bene, ovviamente le ambizioni sono legittime, ma perché Emiliano, che è stato nominato, eletto un anno e mezzo fa, presidente di una grande regione come la Puglia, non si occupa dei problemi della Puglia che sono gravissimi, dall'Ilva alla Xylella, eccetera, eccetera, eccetera? Cioè basta, governiamo, e governare vuol dire assumersi delle responsabilità. Anche perché credo che poi governare bene a livello locale soprattutto è alla fine, poi i risultati si vedono quando si va a elezioni, cioè questa è una cosa talmente banale che dovrebbe essere, mentre appunto chi disperde energie a livello nazionale confonde i due piani, forse non... Esattamente, vivono questi con l'ansia da talk show, con l'invito a occupare una poltroncina in qualcuno di questi queste compagnie di giro quotidiane. Ci fermiamo, ricordo un sindaco di Firenze qualche anno fa, no, che certo, si occupava molto di politica nazionale. E sì, effettivamente ha cambiato ambito. Ci fermiamo un attimo per il traffico e ci risentiamo subito dopo. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta... "24 Mattino". Il Rentmaker è un dispositivo, se potete vedere qui. Cos'è? Vede, un dispositivo. Ah, vede, è questa lucina qui. Sì. È un dispositivo che mi blocca l'attività cardiaca. Ah. Se dico qualcosa che non piace a Renzi. Addirittura? Sì. Su questo devo dire che Renzi è stato chiaro. Tu non dare fastidio a me. Sì. Io non fermo il cuore a te. Addirittura, ecco, ma in che senso? Cioè, come... Ma guardi, io adesso, per esempio, se dico, che la riforma della scuola di Renzi fa schifo, perché obiettivamente la riforma di Renzi fa schifo. Sì. No, Presidente! E vabbè, e qui abbiamo un comico che fa il suo mestiere, fa la satira, quindi a differenza di De Luca, per quello dicevo che insomma preferisco allora Crozza, e un po' è sull'onda di quello che dicevi, Chiara, che appunto sottolinea quello che è abbastanza credo chiaro a tutti, cioè che Gentiloni è un renziano, si muove nella scia, ma poi lo vediamo, questo governo è molto simile, cioè, è stato chiamato il governo fotocopia. Però volevo chiedervi soprattutto, questo piccolo rimpasto così è sembrato a molti appunto più che una fotocopia, quasi una presa in giro, e di nuovo una reazione che non ha ascoltato quel no che molti interpretano sì come un no alla riforma costituzionale, ma un no al governo Renzi. Quindi diciamo che un po' il peccato originale adesso già di questo governo è che è troppo simile a quello precedente? Ma Angelo? Io dico, cara grazia che abbiamo un governo. Ricordo che questo paese non era riuscito a sostituire il presidente della Repubblica Napolitano qualche mese fa, mica tanto, Mm-hmm. Non riuscendo a produrre una maggioranza. Siamo un paese così, come diceva Ennio Flaiano, la situazione in Italia è grave ma non seria. Questo è il governo possibile alle condizioni date, alternative non ce n'erano. E devo dire che Mattarella è stato abile e saggio nell'interpretare con questi vincoli, con questi limiti, la necessità di dare un governo in un paese che era arrivato, dopo i pasticci del referendum, a non avere la legge di stabilità a dicembre, ad avere la grande banca MPS per aria, eccetera, ecco, con il debito pubblico tra i più alti del mondo, e noi facciamo allegramente questioni di schieramento con la speranza che Speranza prenda il controllo del PD. Ecco, Chiara, sei d'accordo che insomma con è appassionatissimo la questione di Speranza, però no, Speranza in tutte le risposte, no, però cioè, è veramente, effettivamente c'erano delle scadenze, addirittura abbiamo avuto il paradosso, no, di un che il giorno dopo il referendum si è dovuto votare appunto la legge di bilancio, il governo ha messo la fiducia e poi si è dimesso, quindi direi veramente solo, credo, diventerà una specie di storia da raccontare negli annali della politica, però effettivamente queste scadenze c'erano. Adesso oggi sappiamo c'è questo vertice di Bruxelles, ma molte altre arriveranno, e quindi Chiara, sei d'accordo che piuttosto che restare senza governo, meglio un governo così, anche se poi ho sentito evocare per esempio il caso spagnolo o quello del Belgio di 2 anni fa, dove la mancanza di un governo in realtà non ha ostacolato. Ma questo è un paradosso, non possiamo costruire un paradosso, il giorno che accade lo gestisci, ma non è per... Ma figuriamoci, io sono felicissima che ci sia un governo. Basta che se la sgrattino loro. La ragione principale... Ma scusi... Non ho capito sta battuta. Cosa no, l'atteggiamento del paese quando fa il salottiero e si occupa di schieramento. Io non faccio la salottiera, guardi. No, cioè, ma forse non lei non mi conosce, mi scusi, ma non capisco. No, Chiara, ascolta, Angelo, aspetta. La sta facendo con me. Io non ce l'ho con Chiara Geloni, ce l'ho con tutti quelli che dicono tu fai il governo e io mi diverto a criticare. Cosa devo fare? Fare ministro? No, cosa devo fare? Fare ministro? Chiara, se mi chiama vado, ma non mi ha chiamato. Dimmi Chiara, la ragione principale per cui c'è un governo nuovo è che la riforma costituzionale ed elettorale erano state fatte in modo talmente pasticciato che noi non possiamo andare a votare perché non abbiamo una legge elettorale. Quindi, punto primo, per forza si doveva fare un governo, non è un miracolo, non è una grazia. E naturalmente questo governo è stato fatto anche in fretta perché oggi c'è un impegno europeo importante, perché così ha voluto il Presidente della Repubblica. Facendo le cose in fretta forse non si è potuto fare diversamente che farlo sostanzialmente uguale. Questo ha, diciamo, fatto sì che l'Italia non sia rimasta senza governo troppo a lungo, ma naturalmente fa anche sì che questo governo non trasmetta un'immagine di grande forza, di grande reattività e capacità di rispondere e di ascoltare i segnali del paese. Ora io ho capito che il 40% è tutto renziano, è tutto felice di come stanno le cose in Italia, però forse effettivamente in questo governo avrebbe potuto entrare anche, che ne so, come sottosegretario, un cittadino che magari ha votato no. Non dico un esponente della minoranza PD perché per carità quelli sono appestati, ma un cittadino che ha votato no, ce lo vuoi mettere nel governo così per dare l'idea che si guarda avanti, no? Che non è il governo della trincea, sì, di quelli che hanno votato, ecco, sì. Prima forse di... poteva essere un segnale di forza. Volevo del governo. Farvi sentire 17 secondi di Zanetti, che era sottosegretario per l'appunto al Ministero Economico ed è stato escluso, anche se manca la lista dei sottosegretari, quindi magari verrà ripescato, ma sentiamolo perché appunto si sta anche lui un po' avviluppando nelle polemiche politiche più che nelle cose concrete. Sentiamo Zanetti. Ho la sensazione che Verdini abbia chiesto un po' troppo, insomma, ieri, cioè ha chiesto un ministero per lei. No, ma guardi, io all'agricoltura sinceramente poteva essere forse la soddisfazione di quelli che mi scrivono sui social che devo andare a zappare, con tutto il rispetto, è una battuta naturalmente per l'importantissimo... Vabbè, l'autoironia secondo me è sempre apprezzabile, però questo è un'altra cosa che a me ha colpito molto e avrei tanto voluto invece un segnale di discontinuità anche in questo, è il mercato dei sottosegretari e dei ministeri. Il caso più palese, ma lui credo non se ne vergogna affatto, è quello di Verdini, che non avendo ottenuto i ministeri che voleva ha fatto il gran rifiuto. Poi vedremo quando ci saranno da votare i singoli provvedimenti. Angelo, tu che hai visto qualche... l'hai vista come me, cioè il solito appunto mercanteggiare, o forse questa velocità lo ha impedito, la velocità del... Intanto quello che dice Zanetti sull'agricoltura, vorrei dirgli che l'agricoltura è una delle cose più serie che esistano. Sì, lui si è corretto alla fine, ha dovuto appunto dire con tutto il rispetto per... Sconcertante quello che ha affermato. Due, la capriola di Zanetti ci dà la misura del sistema nel quale siamo collocati. Costui fino a ieri si occupava della delicatissima questione della rottamazione delle cartelle Equitalia, tema popolarissimo e molto delicato. Non c'è più Zanetti, è andato a casa, è andato a zappare, e questo ci, appunto, ribadisco, ci conferma che la maionese è impazzita, che in questo paese non c'è continuità quando parliamo ai cittadini. Terzo, i sottosegretari. Noi abbiamo intervistato su Affari Italiani un verdiniano importante che ha detto che non accetteranno poltrone. Vediamo se mantengono la promessa. Okay, ma segniamocelo secondo e me, vedremo. Dietro l'atteggiamento di Verdini c'è, secondo me, l'idea che Renzi attraverso Verdini possa in qualche modo tenere in mano un po' sotto schiaffo sia il governo, facendogli mancare i voti, che il Quirinale nel momento in cui volesse allungare i tempi, il Presidente della Repubblica. Ed è anche una trappola per questa famosa sinistra PD, che dovrà necessariamente dare i voti quando al Senato attraverso la defezione dei verdiniani mancheranno i voti. Purtroppo i tempi sono finiti per noi. Chiara, mi spiace non poter chiedere anche a te di questa questione dei sottosegretari. Ringrazio tantissimo i nostri ospiti. Ora c'è il GR, poi ci risentiamo con la rassegna stampa. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Mattino. Ancora buongiorno, buon giovedì da Giulia Crivelli, grazie a tutti gli ascoltatori che hanno mandato messaggi o sms o whatsapp al 349-238-6666 e chi volesse può anche mandarmi un messaggio su Twitter, il mio account è molto semplice, Giulia_Crivelli. Ma cominciamo dalle prime pagine dei giornali, come sempre dal Sole 24 Ore, anche se oggi poi verso le 7.40 Mauro Meazza ci racconterà nel dettaglio cosa legge religiosamente e avidamente sul Sole 24 Ore. La, come ieri, sotto la testata c'è quello che chiamiamo appunto palchettone, cioè una sorta di titolo aggiuntivo che riguarda la novità della fiducia al Senato al governo Gentiloni, che oggi, come abbiamo detto nella prima parte di 24 Mattino, avrà il primo impegno come premier nel pieno possesso delle sue facoltà a Bruxelles. Il titolo principale però è dedicato alla vicenda Mediaset, che come ieri avevamo detto, Vivendi aveva già iniziato questa scalata diventando il secondo socio dopo Fininvest, quindi dopo la famiglia Berlusconi, di Mediaset. Ora ieri, alla fine della giornata di ieri, Vivendi ha annunciato di aver superato il 20%. Molte le reazioni, la famiglia per voce di Berlusconi e dei Confalonieri ha detto che è un'operazione ostile. Sapete che in questo caso ostile significa che il CDA non ha approvato questa ingressa, questa scalata, questo aumento di quote di un socio esterno. La famiglia aumenterà la quota, ha dichiarato Berlusconi, e poi c'è stato un intervento anche del ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, che ha definito la scalata inappropriata. Vi ricordo anche che c'è anche una denuncia fatta da Fininvest alla Procura di Milano e per conoscenza alla Consob, l'autorità di controllo della borsa, perché dietro l'accusa è che dietro ci sia aggiottaggio, cioè sapete che a monte, prima di questo inizio di questa scalata, c'era anche il fallito accordo di Vivendi per l'acquisto di Mediaset Premium, che ha fatto crollare il titolo Mediaset, e da qui l'accusa, quello è stato fatto ad arte per poi iniziare questa scalata. Gli altri titoli tutti economici, uno riguarda la Fed, la Federal Reserve, la banca centrale americana, che ieri ha rialzato i tassi di 25 punti base, cioè dello 0,25, e poi naturalmente gli aggiornamenti sulla vicenda MPS, perché oggi ci sarà il verdetto della Consob, l'autorità appunto di controllo dei mercati, per la conversione in dei bond in azioni. Il Corriere della Sera titola al centro sulla vicenda Mediaset: governo in campo. Vi dicevo appunto questo, secondo molti anche inusuale intervento del governo, perché per ora, salvo quello che poi dirà il Tribunale di Milano o la stessa Consob, per ora non ci sono state irregolarità o violazioni della legge, però i PM indagano per questa ipotesi appunto di manipolazione del mercato. In prima pagina ovviamente anche la notizia della fiducia a Gentiloni, e poi un'intervista richiamata in prima pagina, che poi trovate a pagina 9, al Presidente della Camera Laura Boldrini di Aldo Cazzullo, e il titolo scelto per questa intervista: il PD non può far finta di nulla. Naturalmente il riferimento è al 60% di no che Laura Boldrini consiglia al PD di interpretare fino in fondo come un no al governo, alle politiche della maggioranza del PD, e non soltanto un no alla riforma costituzionale. La fotonotizia è dedicata a una storia che viene che ci è stata raccontata, l'occasione, lo spunto è stata la trasmissione di Mika, perché ci ha presentato, abbiamo così conosciuto questi ragazzi di una band che si chiama Rulli Frulli. Sono 70 musicisti hanno tra gli 8 e i 25 anni e ognuno di loro ha un qualche tipo di disabilità. Quindi una bellissima storia quando si dice che la musica può unire le persone, ma anche avere così un ruolo autenticamente terapeutico, in questo caso dare un lavoro, perché la notizia è che questa band suonerà anche con Jovanotti. E il Corriere della Sera appunto sceglie per un giorno una foto notizia che è anche una buona notizia. Il giornale, ve lo segnalo in particolare perché sapete che il giornale è controllato dalla famiglia Berlusconi, e quindi il titolo principale: barricate per Mediaset per quello che viene definito un attacco al sistema Italia. Vedremo che ci sono anche altri giornali di centrodestra, per composizioni dichiaratamente di centrodestra, come Libero, che sono su una posizione diversa, cioè pensano che comunque questa operazione sia un'operazione di mercato e non un attacco al sistema Italia. In prima pagina il giornale è l'unico che mette questa notizia, che ieri noi che lavoriamo nei giornali e possiamo vedere anche le agenzie, quindi vedere un po' le notizie in anticipo, avevamo visto, e che ieri appunto ha chiuso lo stabilimento Agnesi di Imperia, un storico marchio di pasta. Il titolo dell'articolo di Andrea Cuomo, che poi trovate a pagina 21, è: fine di un marchio, silenzio, chiude Agnesi. E naturalmente il riferimento è a una pubblicità di qualche anno fa, che però era stata quando una pubblicità entra proprio nell'immaginario, credo, almeno io me la ricordo molto bene. C'era questa famiglia a tavola, tutti zitti perché stavano mangiando la pasta, silenzio, parla Agnesi, era appunto il cosiddetto claim, e per molti motivi questa azienda è entrata in crisi molti anni fa e ora ha proprio chiuso. La Repubblica ha una fotonotizia diversa dedicata ad Aleppo, perché sappiamo, ieri avevamo visto su tutti i giornali la notizia arrivata finalmente di una tregua nella seconda città siriana, che avrebbe permesso di evacuare tutti i civili che sono intrappolati in una città dove appunto manca tutto, dall'acqua al cibo alle cure, e purtroppo la tregua è già finita. E quindi il titolo: Aleppo, si cerca la tregua finale per liberare i civili, ma dopo un'altra giornata di bombardamenti è stata bloccata l'evacuazione di migliaia di abitanti. Al centro della prima pagina della Repubblica però Mediaset, e il titolo: scontro Italia-Francia. Viene anche qui, quindi anche in questo caso, interpretato più che come un'operazione sui mercati finanziari, come appunto una contrapposizione tra Italia e Francia. E poi con, devo dire, meno enfasi di quella che mi sarei aspettata, la notizia della fiducia al governo Gentiloni, e poi l'altra polemica di ieri, quella che riguarda il Jobs Act, o meglio il fatto che la CGIL ha raccolto le firme per fare un referendum di abrogazione o approvazione del Jobs Act, la legge che ha riformato il mondo del lavoro. Ieri il ministro Poletti però, e su questo referendum, come sempre deve succedere, si deve pronunciare la Corte Costituzionale, succederà l'11 gennaio, per dire se si può o no appunto tenere questo referendum. Il ministro Poletti, che essendo il ministro del lavoro è uno dei padri di questa riforma, ieri ha detto: andiamo al voto per evitare il referendum. È stata molto mal interpretata questa affermazione, perché se si va alle elezioni politiche i referendum devono essere rimandati di un anno. È un dato di fatto, è vero, però è stato insomma molto facile pensare che Poletti l'abbia detto proprio come un modo per evitare un referendum che boccerebbe una riforma di cui, come abbiamo detto, lui è uno dei padri. Ora però ci fermiamo per una breve pausa, poi vediamo gli altri titoli delle prime pagine dei giornali. Mattino. Buongiorno ancora, buongiorno da Giulia Crivelli. Rispondo subito all'ascoltatore che giustamente ci dice: se mai il referendum sul Jobs Act ci sarà, non è per abolirlo in toto, ma per abolire tre delle norme che compaiono nel Jobs Act, che sono esattamente le modifiche all'articolo 18, il famoso statuto dei lavoratori, la limitazione alla responsabilità in solido di appaltatore e appaltante, e i famigerati o famosi voucher. Torniamo alle pagine, alle prime pagine dei giornali. Il Messaggero, come fanno molti altri quotidiani, titola su Mediaset "Mossa del governo", quindi enfatizza questo intervento che abbiamo definito inusuale del ministro per lo sviluppo economico Calenda, che ieri ha confermato quello che poi aveva già detto la Fininvest e lo stesso Berlusconi, cioè Fininvest è l'azionista di maggioranza di Mediaset con circa il 40%, azienda strategica, e la scalata è ostile. Poi in prima pagina anche la fiducia al governo Gentiloni e un aggiornamento sulla inchiesta che ha portato alle dimissioni dell'assessore all'ambiente Paola Muraro. Lei non è del Movimento 5 Stelle, ma è l'assessore all'ambiente difesa fin dall'inizio della formazione della giunta dal sindaco Virginia Raggi. Il Messaggero scrive: "Grillo gela la Raggi, è un problema suo, cioè un problema di Roma", che insomma è un'affermazione forse su cui bisognerebbe discutere, perché sappiamo che tutti osserviamo con molta attenzione questa prova di governo importantissima del Movimento 5 Stelle a Roma, che molti hanno definito come una prova generale per una prova di governo più importante, cioè quella nazionale. Quindi forse dire che il problema di Roma, la Raggi questo assessore che dovrà essere sostituito in fretta, l'assessore all'ambiente, è un problema di Roma, forse è un po' liquidare un po' troppo in fretta la questione. Avvenire, fotonotizia e apertura dedicata all'Apple: la pace a volto di morte. Il riferimento è al fatto che si era parlato di una tregua per almeno evacuare tutti i civili ancora intrappolati nella seconda città di Aleppo della Siria. La tregua è stata immediatamente violata. Poi la notizia di Gentiloni, sempre sull'Avvenire. Il Foglio ha il titolo principale che è firmato con un articolo firmato dal direttore Claudio Cerasa, si intitola "Il disegno francese in Italia", quindi anche questo dedicato alla vicenda Mediaset Vivendi. L'operazione Mediaset è la punta di un iceberg che porta alla conquista di Generali, perché sapete che Bolloré, che è l'azionista di controllo di Vivendi, è anche azionista di Generali, e quindi la punta di un iceberg che porta alla conquista di Generali attraverso il controllo di Mediobanca. Cosa ci dice il boom del salotto francese sulla salute del sistema italiano? Vi segnalo dall'Unità, appunto, questo utile schemino al quale ho fatto riferimento anche per rispondere all'ascoltatore, a pagina 3 dell'Unità. Uno schemino molto utile per capire come si è arrivati a questa richiesta di referendum sul Jobs Act. La CGIL ha raccolto, pensate, oltre 3 milioni di firme, quindi molte più di quelle necessarie per chiedere alla Corte Costituzionale un referendum abrogativo di una legge o di parte di essa. Passiamo alle pagine interne. Dell'intervista di Aldo Cazzullo a Laura Boldrini, Presidente della Camera, vi avevo già accennato, la trovate a pagina 9 del Corriere. Laura Boldrini esprime tutte le sue opinioni sul governo e su quello che dovrebbe fare il PD. Ricordiamo che Laura Boldrini non è un esponente del PD ma di SEL, e il titolo scelto all'interno è "Ora la sinistra torni unita, Renzi tenga conto del no". Vi segnalo, abbiamo parlato del sindaco Raggi e della vicenda di Roma, mi sono un po' divertita a vedere come i giornali titolano questa notizia. La notizia è che il Papa ha scritto a, alcuni giornali dicono 80, altri dicono 60 sindaci, la stessa lettera di incoraggiamento, tenendo conto delle difficoltà che gli amministratori locali hanno, sia per il taglio che hanno avuto dai fondi nazionali, sia perché comunque aumenta il disagio sociale. Subito su Twitter Virginia Raggi ricordiamo, Twitter consente solo 140 caratteri, quindi non si poteva pretendere da lei forse una spiegazione completa, ha intitolato "Una grande emozione", e il Corriere della Sera titola questo trafiletto a pagina 13 "La gaffe, orgoglio Raggi per la lettera scritta dal Papa a 80 sindaci". Quindi un po' come dire, non intestartela perché era 80 sindaci, però tra gli 80 o 60 c'era anche lei, quindi anche qui vedo, appunto, già fin dal titolo c'è come un'opinione. E Il giornale sul giornale è ancora più chiaro, perché il retroscena raccontato a pagina 12 viene intitolato così: Raggi mollata da Grillo e Casaleggio, il riferimento è alla dichiarazione di Grillo, la murare è un problema della Raggi e di Roma, punto, ma non dal Papa, la preghiera di Bergoglio, Dio non l'abbandoni. E anche qui forse dava ricordato che appunto Bergoglio non vuole abbandonare, non desidera che Dio non abbandoni la Raggi come tutti gli altri sindaci italiani. Lo trovate anche su, per esempio, a pagina 7 della Stampa. Il Papa ha scritto alla sindaca la nuova gaffe di Grillo e Raggi. Il Vaticano, infatti, ha subito risposto: è una missiva mandata in fotocopia a tutti i primi cittadini. Vi segnalo sempre dal Corriere della Sera una notizia, se vedo Giuseppe Cruciani oggi glielo segnalo, il titolo della storia raccontata da Alessio Ribaudo è Noi diventati poliziotti vegetariani, ed è la storia appunto di un gruppo di poliziotti che hanno fatto un blitz nel Messinese contro i macelli illegali, perché ci sono macelli illegali in tutta Italia, e hanno trovato truffe e carne avariata, e così abbiamo deciso di smettere di mangiarla. Quindi questo è citavo Giuseppe Cruciani perché insomma lui ha un contenzioso aperto con i vegetariani e i vegani. Ci sono tante ragioni per diventare vegetariani, per esempio questa dei poliziotti, appunto aver visto l'orrore di certi macelli. La prima pagina della Stampa è dedicata invece a sostanzialmente un retroscena, che è quello che riguarda la data delle prossime elezioni. Il piano di Renzi alle urne in primavera per evitare il referendum sul Jobs Act, quindi sulla scia di quello che ha detto ieri anche, che si è lasciato scappare, pensano molti, il ministro per il lavoro Poletti. Adesso però torniamo sul Sole 24 Ore, orgogliosamente sul Sole 24 Ore, e Mauro Meazza ci racconta che cosa dobbiamo religiosamente o avidamente leggere oggi. Buongiorno Mauro. Buongiorno, orgogliosamente collegati, cara Giulia. Sì, oggi naturalmente, ovviamente c'è, ovviamente, per usare un proverbio, molto spazio per la vicenda Vivendi Mediaset nelle nostre primissime pagine, però io so che tu sei spesso alla ricerca di buone notizie, allora per quanto insomma possiamo considerarlo una buona notizia, ti voglio dire che sono definitive le misure per la ricostruzione, sai, il decreto legge per le zone colpite dal terremoto. Ebbene, nelle pagine di Imprese e Territori si dà spazio proprio alla definitiva conversione in legge, quindi diventano stabili, diventano convertite per sempre le misure proprio di sostegno per il terremoto. Questo come buona notizia che ti metto lì. Non è invece una gran buona notizia quella che troviamo a proposito della Grecia, perché sai, non parliamo più tanto della Grecia, ma lì c'è sempre qualche problemuccio. Allora, c'è stata una decisione di sospendere l'alleggerimento del debito. Insomma, si era concordato una serie di misure per rendere meno draconiano, meno severo il rientro dal debito, però in ragione di alcune misure approvate in Grecia, la UE ha deciso di, la UE e l'FMI insomma hanno deciso di sospendere per il momento questo piano di alleggerimento. Contro ogni buon senso, direi. Perché... E questo, guarda, possiamo proporlo, direi, come articolo da meditazione questa mattina, questa corrispondenza appunto sulla Grecia lo scambio tra le autorità monetarie e il governo greco. Scambio non amichevole, ecco, per usare un eufemismo. Ti voglio anche ricordare che oggi, essendo giovedì, perché mi pare che sia giovedì, giusto? Giovedì. È giovedì, no, ma è sicuramente giovedì perché c'è Casa 24. Allora, poiché c'è Casa 24, Casa 24 è dedicata invece alle termovalvole, qualcosa di cui magari non si parla tantissimo su altri giornali. Noi abbiamo seguito con attenzione l'entrata in vigore di questo obbligo, riguarda appunto la contabilizzazione del calore nei condomini. Ma sai che stasera quando torno a casa, no davvero, vado a controllare le mie, perché come probabilmente stai per dirci, conviene fare un controllo, si rischia se non... Ci sono le multe, infatti, ecco. Lo ricordiamo già nel titolo di Casa 24, un articolo da leggere attentamente, userei questo avverbio, articolo da leggere attentamente perché ci sono delle multe che scatteranno da gennaio per chi non è in regola. Poi bisogna precisare, si parlava anche di una proroga di questo termine, ma... come dire, le questioni politiche hanno messo un pochino tra parentesi per il momento la possibilità di questa proroga. Passiamo invece all'analisi dei redditi dei professionisti. Che ieri, tra l'altro, i commercialisti hanno scioperato, giusto? Ma guarda, ti vedo molto attenta . E me ne compiaccio, Perché infatti, come troverai anche nelle prime pagine, sulle 24 ore, da una parte c'è la decisione dei commercialisti che si sono riuniti ieri in assemblea e hanno deciso che dal 28 febbraio ci saranno 8 giorni di sciopero a disposizione della categoria. Tra l'altro il termine va poi a ricadere su una serie di scadenze importanti. Questo per la parte, diciamo, proprio dei commercialisti. Poi c'è invece la parte complessiva dei redditi. Ieri l'associazione degli enti di previdenza delle varie categorie ha presentato i dati. Ebbene, in 10 anni c'è stato un calo dei redditi del 18% e qualcosa. Quindi una riduzione, una contrazione del reddito a dimostrare che la crisi ha colpito tutti, dal lavoro dipendente al lavoro autonomo, al lavoro professionale, insomma tutti i vari settori sono stati colpiti. C'è anche una suddivisione per regioni che possiamo mostrare, se vuoi, agli ascoltatori, così è più chiaro se si vede chiaramente dalla tabella che stai esibendo ora. Allora, poi qui Radio Fisco abbiamo il dato sul TFR di novembre. Ecco, infatti ho visto uno schemino molto chiaro anche quello. Resta su questo, è un dato importante, molto atteso tutte le volte, lo segnalo. Oggi presentiamo il dato di novembre sul TFR. Oh, e poi c'è una notizia, andando verso norme e tributi, che comunque tu leggerai come si deve, cioè religiosamente. C'è una notizia che il dipendente pubblico che si allontana dal posto di lavoro, anche senza il furbetto del cartellino, e si allontana perché esce e va a fare altro, non il suo lavoro, ebbene può essere licenziato. Il licenziamento è corretto, non c'entra la riforma Madia o altre riforme. O quella brunetta, certo. È già in azione, è già operativa la sanzione, lo ha deciso, lo ha precisato la Corte di Cassazione. Ti voglio anche dire che presentiamo poi le pagine di guida ai contenuti della legge di bilancio. Questa volta ci occupiamo degli incentivi per quanto riguarda l'occupazione e il lavoro, li analizziamo nelle abituali 4 pagine che abbiamo presentato sempre in questi giorni, e poi ti vorrei dire anche nel prossimo anno di tenere sotto controllo sempre la cassetta della posta. Perché arrivano le simpatiche comunicazioni del fisco. Perché il fisco potrebbe chiederti se hai proprio ricordato tutto per la tua dichiarazione dei redditi. Te lo chiede in modo bonario. 800.000 lettere sono in arrivo. Tu controlla sempre la cassetta delle lettere. Nel frattempo, cara Giulia, traffico! Nuova Giulietta Winter Edition. Optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta... mattino. Ancora buongiorno, buon giovedì da Giulia Crivelli, bentrovati all'ultima parte della nostra rassegna stampa. Eravamo sulla prima pagina del giornale, della stampa, scusatemi, e qui c'è non una fotonotizia, ma potremmo dire un disegno notizia, perché la stampa dà grande enfasi a questa notizia che è arrivata ieri, che ricordi che è il più grande, probabilmente uno dei pochissimi ormai rimasti, editore musicale italiano, da qualche anno è controllato dal gruppo Feltrinelli, ha annunciato ieri che metterà online gratuitamente il suo archivio, e quindi il titolo è Il tesoro della musica, e il disegno è un raragramma di Silvano Bussotti, una delle grandi opere liriche italiane raccolte nel catalogo, appunto consultabile sul web. E visto che parliamo di musica, un'altra buona notizia, questa la trovate su Libero a pagina 27: Mozart vende più del pop. Il compositore è al numero 1 per CD acquistati nel 2016 e per Billboard, che è la rivista musicale americana che compila queste classifiche, ha superato Drake e Rihanna, colpa di chi ormai la musica la scarica e basta. E io dico che è una buona notizia, perché penso che, insomma, Mozart sia un grandissimo compositore che possa piacere anche ai giovani, e mi viene sempre in mente le parole di Karl Barth, che era un teologo svizzero, che aveva detto, ed è una cosa poi diventata molto così popolare tra gli amanti di Mozart, che quando gli angeli si trovano tra di loro per glorificare Dio suonano Bach, però se sono da soli suonano Mozart, perché ha un altro tipo di allegria, di Ma questo è così, avete saputo qualcosa in più sui miei gusti musicali. Il secolo XIX, che sapete è sotto il controllo della stampa, quindi il titolo principale è lo stesso della stampa, quindi questa strategia di Renzi per il voto in primavera, ma c'è anche una notizia che riguarda la Liguria, essendo il secolo XIX il quotidiano di Genova, e che riguarda in particolare la sanità, un tema che poi in realtà a livello nazionale ci riguarda tutti. La sanità ligure, per esempio, ha dovuto affrontare tagli per 30 milioni. E da qui anche questo piano della giunta Toti, che il governatore della Liguria Toti, che ha poi commentato: punteremo sull'efficientamento, sarà una grande sfida. Libero, perdonatemi la parola non proprio, insomma è quasi una parolaccia, il titolo di Libero è questo: caro Gianfranco, virgola, ti credo sulla parola, quale parola? Quello che ieri Gianfranco Fini avrebbe detto: sono un coglione. Il riferimento naturalmente è alla storia della casa di Monte Carlo, quella che nel 2009 venne fuori, una casa di proprietà di AN di cui all'epoca Fini era presidente, che fu venduta alla famiglia Tugliani, si dimostra ora, per un valore di circa un quinto inferiore al valore di mercato. Vittorio Feltri ricorda questa storia e inizia così: che storia quella del povero Gianfranco Fini, prematuramente scomparso dalla scena politica dopo esserci stato per un ventennio da protagonista. Egli oggi dice di se stesso: sono, come abbiamo detto, ma non sono un corrotto, il che dal mio punto di vista è peggio. Vi dicevo che non tutti i giornali di centrodestra considerano l'operazione Vivendi Mediaset un'operazione che viola qualche legge di mercato. Per esempio Fausto Carioti, sulla prima pagina di Libero, scrive: scalare Mediaset non è vietato, è libero mercato. E l'articolo continua poi a pagina 5. E vi segnalo forse soprattutto agli elettori del PD l'appunto di Filippo Facci, la rubrica di Filippo Facci ogni mattina su Libero. È una vicenda che raccontano anche altri giornali, non è una bella vicenda, riguarda la parlamentare Alessandra Moretti, che è del PD, anche se Filippo Facci la definisce diessina, e la questione è questa: la diessina Alessandra Moretti ogni tanto spara delle cazzate spaziali, e perdonatemi anche qui, ma cito testualmente: siamo abituati, l'abbiamo sempre perdonata perché ha quest'aria da amica belloccia che devi far ubriacare sperando che la serata finisca bene. Ora però è malata, poverina. Qualche giorno fa l'ha ammesso anche lei per giustificare l'ennesima sua assenza dal Consiglio regionale del Veneto, dove si discuteva la legge di stabilità, quindi non proprio una cosa da poco. Che malattia ha? Vige la privacy, ma qualcosa si è intuito quando sul suo profilo Instagram la signora ha postato una foto dal luogo di degenza in cui si trova, a Jaipur, in India, dove è andata per folleggiare al matrimonio di un imprenditore che ha organizzato 4 giorni di festeggiamenti. La Moretti non ha violato nessuna regola, risulta semplicemente assente. Il problema è che l'hanno beccata e che lei, ma che simpatica, che disinvolta, ha risposto così: sono ammalata da viaggio. Ecco, che sia malata è l'unica cosa certa, però stia attenta, si riguardi, sono tempi difficili, ci sono in giro un sacco di infermieri che la curerebbero con la tomaia delle loro scarpe. Allora, purtroppo l'opinione di Facci, insomma, è chiara, anche la critica e il sarcasmo, però la notizia è vera. Alessandra Moretti, che ricordiamo si era candidata a governatore del Veneto, è stata battuta da Luca Zaia, ma siede nel consiglio della regione Veneto, appunto ha giustificato la sua assenza con una malattia. In realtà si scopre che era in India per piacere, e questo non l'ha smentito nessuno, e questa, se volete, è la notizia. Poi i commenti, appunto, da Filippo Facci in poi, chiunque può farli. Ultimissimo titolo che vi segnalo prima di lasciarci, oggi il tempo è poco, anzi come sempre è poco, troppo poco per parlare in profondità di tutto. Il titolo della Verità, il quotidiano fondato da Maurizio Belpietro, è: via la bugiarda dal governo. Il riferimento è a Valeria Fedeli, che ha commesso quella che secondo lei è una leggerezza, definire laurea un corso di studi che quando l'aveva fatto era un diploma e che oggi sarebbe una laurea. Comunque sul profilo ufficiale, sul suo curriculum ufficiale su internet, adesso questo errore è stato corretto. Era l'ultima, come dicevo, l'ultima segnalazione per oggi. Grazie a Peter Bescapè in regia e Lorenzo Nespoli in redazione. Ancora un buon giovedì a tutti da Giulia Crivelli.